di amplificazione. Abbasso. Così va meglio? Hola, hola. E voi? Troppo forte e troppo piano? Troppo... aumenta un po'. Hola. Guarda a vedere com'è. Oh, perfetto. Bella forte. Questo è... l'87. Cioè, quello... l'ho attaccato nel 87. Già zocca, raga. Sono anche una merda. Per me può essere così, perché è un bel forte, se no si fa di doppio brutto, faccio. Poi tu, cazzo, urli. Cosa urlo? Beh. Così a maggio, non è che urlo. Vabbè, adesso commutiamo la stazione 2, va. In mezzo cocco. Quando arriva Clivani, telefoneggiami. Che cosa è? Stazione 2. Che fa casino qua, avanti! Thank you. direttamente lì il cablaggio, vuole fare il cablaggio diciamo preciso diciamo alla come c'è alla parecchio, se no non lo fa, ok, dove c'è una cosa facile a farlo, ok, sono già attento poi si rischiare di fare anche qualche danno, di essere là, bisogna farlo fare del lavoro, devo fare diciamo una competenza diciamo, là. Bene, bene, e ecco questo, ho detto io c'è il microfono suo, c'è il microfono alla tabile, però già fa benissimo, il microfono di questo è interessante, alla tabile, si fa della ITA, questo non c'è, già la parola sotto, la testa. E anche io volevo prendere un indicatore, diciamo, non posso intendere, lo spazio, vedi si parla di voli, non è che mi piacciono molto, anche uno può imparare che sia da 50% quasi da bene, con la fase, diciamo, è troppo incomprante, io ce la devo, però era partito, era stato con il valvole, in più si era incasinato all'interno, l'ho portato, l'ho fatto portare via da qua e infatti lo volevano mettere, lo volevano riparare, dopo le cose fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, niente, quindi quando uno diciamo uno si è fatto posto rispetto come sono io, va bene diciamo un applicatorino che sia diciamo potente e anche da veicolare e va benissimo lo stesso, prende fatto posto e diciamo e ti dà diciamo la soddisfazione lo stesso. Tutto qua, sei capito. E con lo veicolare va bene lo stesso. Già uno qua a veicolare che è della mia cagina, però abbastanza fare diciamo per 204 perché io non ho ricamato a 50, quindi vedrete è stato stato così e poi non lo so, per noi diciamo una bella pigliolata pure. La parola da prestatore funziona bene, però non dà il passaggio della medaglia, per il non lo so, che fa bordello questo canale. Diciamo una caricatura, ci vuole anche il posto per tenerlo, anche a questo posto, come stavo dicendo io, non va bene. Questo posto qua, insomma, per appunto per qua del nostro spazio. Ok, ma accontentarsi di poco quando si può fare di fare di molto, ok, e tu aspetta, è fatto male, le occasioni bisogna diciamo accogliere subito quando dopo non ci sono più, quando te le prendi non è bisogno aspettare diciamo all'altra occasione a richiamo. C'è tutto questo spazio e meglio così. diciamo che la buonasera e il vostro sviluppo della serata sarebbe così che ti ascolto. Forse stai, dai, sei capito. E ok, salutami a numero uno, se ti capita, diciamo, che lo vedi. Salutami da Fabiano per la parte mia. Ciao, ciao, ancora, ci sentiamo nella riguardo, vai. Hola. Attenzione ai canali 10, cambio. Avanti già. Chi è? Furio solo. Ciao tu. Ho provato a vedere se c'era gente, ho detto, adesso accendo. Perché se la mangio sempre che non c'è nessuno, ma non entra nessuno, vai. Cosa vi mostro un vaio? Era un bugavuggalo. E tu? E te se sei un bilende? Un caldo sotto. E anche io mi sono sdraiato adesso, in questo momento. Ho acceso l'apparecchio, adesso mi sdraio, mi rilasso un po'. Ora, mi sono fatto una bella cantata. Sì, e chi ne ha più voglia di cantare? E anche là. Piano piano. Riprendo là pure quello. Scappa adesso, mi rialzo un attimino. Un'altra stazione, ti faccio sentire il microfono, vedere come se ti piace. Questa qui, la stazione che c'hai nella camera centrale, là. Capito. Questa qui qual è? La stazione che c'è in cameretta? Sì, sì, stazione quando gioco cucato. Cosa ci hai fatto? La plugga? No, l'ho passata da fuori direttamente, sì sì. Ho fatto l'impianto, l'ho passato qua, giro col commutatore e funziona. Ah, ecco, sì sì. Scappa, mi dai un minuto, ti faccio sentire. Un microfono che mi sono installato, vado nell'altra stanza, due minuti. Ehi, questo qui è un po' bassino, Forse sta parlando a voce bassa, come ti sei cucato. A te, Don Gianni? Va. Com'è? E che microfono è questo qua? Bello. È forte, però c'ha rimbombo. Va bene, perché adesso vorrei vedere un attimo come. Questo è l'M600. Anto, aspetta che ti ascolto con un altro apparecchio, perché con questo non mi piace. Guarda a vedere. È in basso, mi passo in basso. L'apparecchio, ma non è l'apparecchio, è proprio tu che stai facendo così, perché l'ho cambiato l'apparecchio adesso. Adesso sono con il Galaxy che si sente perfettamente. Ma non riesco a accoppiarti bene, è molto cupa la radio. Oppure mi hanno detto che andava bene, chissà qualcosa. Ok, dai, torno un'altra volta, c'è un bambino fuori capo. Prova a parlare un po' lontano. Se mi sia fatta tempo. Frustra. Vabbè, dai, vado in camera, se c'è il bambino fuori campo. E vai, vai, tranquillo. E non puoi parlarla. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione 10. Già. Ne ci sei? Ehi, eccomi qua. Qua va meglio? Adesso sei chiaro. Questo è originale, questo. Ma tu è meglio più basso, però chiaro che è forte, se cupo, capito? Un bel cupo è, magari la capsula non è la sua, non è l'originale, boh. No, magari non lo so, o non mi si addice, lo sarei gioco. Prova a pensarlo a me, lo mettiamo qua, vedete. Non lo so, adesso vediamo. Alleluia. Comunque, adesso sono, questo qua è originale, questo è il coso, la lancetta questa. Quelle, come si chiama? Quello M300, qual è? Quello M600 o 300? 300 è quello manuale, da palmo, l'altro è di quelli grandi. No, no, da tavolo. Come quello che aveva Gio Maria, e Gio Maria ce l'aveva. E l'Intec. Io non lo so, mi pare che Gio Maria ce l'ha ancora qui. Però ci va bene con quel microfono, è strano, esce forte anche, esce sempre un bel forte quel microfono. Non lo so già, andiamo a vedere un po' il perché. Non io l'ho messo basso basso, l'ho messo. Magari non sei andato, non sei andato all'apparecchio. Non lo so. Che attacchi c'hai? 87 Superstar, quell'attacco lì. Se del Superstar ci sta bene anche sul Galaxy, si può provare per vedere se dipende dall'apparecchio o se dipende dal microfono. Lo proviamo qua e poi te lo tollo, solo per vedere come va. Non so. Adesso vediamo, da. Vabbè, quindi tu altro, io te l'ho detto, se vuoi fare la prova, lo mettiamo qua, parlo e così tu mi ascolti a vedere come esce. Comunque quella storia è tutta a posto, da quando l'ho messo lo spray si è ripreso tutto. Ci avrà qualche annetto, ci avrà un pochettino, sai. Altro, questo qua mi era partito l'altro che c'avevo uguale identico, mi era partito e ne aveva uno fusaro e me l'ho comprato, capito? L'avevo ordinato per un altro, però se l'ha ritirato e me l'ho preso io, però poi mi sono accorto che gli mancava nel motore, invece che essere nel rosso e nero, perché gli manca il tappo rosso. Quello lì deve essere che l'hanno perso, che non l'hanno messo, ma non mi ha tutti nuda, è nero e va bene lo stesso, funziona lo stesso. Ma no, perché quello là c'aveva rosso. E l'altro, quello che è partito, cosa gli è successo? No, funzionava più, andava tutto con lo scalo, provato, pulito, fatto. Tutte e due le frecce con lo scalo andavano. Sia quelli dei vasi che quella di. Cioè, si è malato tutto. Cappa. Quello che ho preso io, cavolo, è buonissimo, eh. Ma questo qua io ce l'avrò forse 5 anni, là. L'altro che avevo ce l'avevo un bel tempo, ma un bevano. Ma l'avevo venduto l'altarino, ma ti parlo di quando abitavo ancora in campagna, fatti un gol. Ah, quello vecchio. Esatto. Ma l'avevo venduto 40.000 lire, me lo ricordo ancora. È andato sempre, no, non era vecchio, era nuovo quando me l'ha dato, funzionava bene. Poi diciamo che col tempo magari parte qualche componente, qualche cosa, chi lo sa. Io sono bravo, sono vecchio. Però avranno cucciare un bel micocciare. Costano parecchi soldi. Non so, il mio costa 98 euro mi pare. Di più la giovincio. E adesso magari sarà aumentato anche. Costano un bel sì, prima costavano proprio pochi lire. Adesso costano tanto. Bello era quello che c'avevi tu, quello grande della Midland. Quello è bello, eh. Quello sta bene qua. Ma Luca ancora ce l'ha. Ma non lo so, mi pare che lo stava vendendo. Mi a chiedere a lui. Se ce l'ha me lo faccio dare. Lo metto sopra il Galaxy, se quello ci sta bene. Cazzo. È grande, io ce l'ho avuto ed è bellissimo. È lungo quanto il Galaxy, anch'io ce l'ho avuto, l'ho comprato alla GBC, sono andato a usarlo, c'aveva il filo legato con questo. questo elastico, l'elastico era tutto sciolto, attaccato a un filo, ho detto ma che cacchio mi ha dato? Sto attaccato e non funzionava, glielo riporto di dietro e lo faccio tornare su. Che cazzata ha combinato? No, quello lì era qualcuno che l'ha riportato dietro perché non funzionava, era legato con, mai visto avevo io legati con l'elastico, il filo. E questo elastico da quanto tempo c'era? C'era sciolto, insomma, attaccato al filo c'era. Se la duca tanto tempo va via. E ma infatti non me ne sarebbe fregato nulla perché quello l'avrei pulito magari. Perché rimanebbe incollato, capito, l'elastico, era sciolto. E se funzionava già me l'avrei tenuto, ma non funzionava. Ciao. È un po' particolare come rospettro, Quale? Ti posso assicurare che va bene. No, rospettro è wattmetro, che fa? È tre strumenti, sì, però ti posso assicurare quello che c'è, voi io funzionava benissimo. Non so, ma non l'ho fatto vedere Luca. Adesso glielo dico, sembrano là. Quindi un'altra cosa che voleva lui. È molto bello, molto molto bello. Cavagava, anche come estetica mi piace, perché è la stazione base, capito? Sì, sì. Vabbè, io poi mi ho preso quello lì che è molto più bello, cioè. Troppo manno era chiesto. Già ci stava, però mi occupava troppo spazio. E poi mi sono preso quello là che è molto carino. Sì, ma qua che ci sta bene, tu non ti preoccupare lui. A me lo spazio non me ne occupo perché io lo metto sopra il garage e ci sta tranquillamente, perché la lunghezza è la stessa. Ci sta sopra il garage e praticamente e poi chiudo il mobiletto, non si vede nulla, non si vede nel garage, nel rospetto, nel nulla. Capo. E allora mi sono preso, cioè, quello lì, che è un po' più piccolo ma funziona, è una meraviglia, misura bene anche i watt. Vabbè, ma tu c'hai tutti i veicolari ed è meglio quello piccolo, però c'è tutti gli apparecchi base, capito qua? Quindi quello grande ci sta benissimo. Già, lo so che ci sta bene, oh, ma ci stava anche nel mio mobile, solo che un barrasone vanno. Bisogna saperne amare le cose, io nella stazione base metterei solo esclusivamente apparecchi base, ma non ne fanno più, non ne fanno più base. Quelli che ho me li tengo stretti perché non ne fanno più. Lo so, non ne fanno più. Allora non faccio il Galaxy nuovo, l'avevi visto? No. Quello si era bello, tutto quanto elettronico. È presente gli apparecchi, quelli radioamatoriali, era tutto così display. Qui c'era anche, come si chiama? Tutte le apparecchiature. Come cazzo si chiama? Adesso non mi viene, va. Comunque si vedeva tutto, dai. C'era tutto colorato davanti, con tanti tasti, un va bene. Se lo busco uno a poco prezzo lo prendo un Galaxy o qualcosa del genere. Poco prezzo, minimo te lo danno 2,50 adesso, non te ne danno di me. Allora mi piglio un HF. Vuoi parlare con un muro? Cucca. Buonasera. Ciao Luca, allora, come andiamo? Mi è diventato poco fa da Olbia, ciao Popoli. Sì, è bello. Che fai un passaggio anche tu. 2-3 prova, sì, sono con il baracchino di camera. Fai già? Sì, non ha l'accento, ma dovrei dare un comodino. Guarda, se ti fai il segnale, con Gianni. C'era un grido già. E saremo 9.30 tutti e due, Quali segnali avete? Quali pari? Diciamo che quando parlate assieme non mi si capisce. Questa antenna è buona, ce l'ha anche Marco Condor e arriva da tutte le parti. Lui c'ha Midrand, io c'ho Sirio. L'unica differenza è quella. Ma sono uguali, Antu, sono chiamate diversamente, come certe macchine, sono chiamate diversamente con un'altra marca e sono precise di motore di tutto. L'unica cosa che ha, questo c'è così in plastica, c'ha, che chiudono l'antenna, capito? Quella di Marco no, invece. Ma la bevita della storia è chissà me. Cos'è così di plastica? Non ho capito, lei è una fine della via. No, allora, ogni stilo c'ha due viti per chiuderla. C'ha due viti e questo affare in plastica. Nelle giunture dell'antenna. È una protezione, dai. Con la scritta Sirio sopra. So, l'antenna è quella, una 5 ottavi, quindi. Cappaga. Vabbè, è un po' più fina delle altre, ma va bene, come antenna va bene. Marco ce l'ha un bel di anni già. Lui ha detto che pensava che dopo un anno le cadesse, invece tutti i vedi tutto quanto, ha sopportato tutto. Brighivie, sempre lì, poi non ti credi molto fine, no? Già è grossa, già. Non molto fine, ma non sarà come la mia, no? È più fina come tutti, vanno bene lo stesso. Sì, vabbè, più leggera anche. Beh, certo, essendo più fina, tu mi sorprendi. Luca, e cosa ci facevi a un girella lì? No, sono andato a piazzare due motori in questo capannone, di questo portone, su quei portoni, quelli sezionali, no? Quelli che si aprono al libro. E niente, sono arrivato a Sassarino quasi le 5, 4 e mezza. Ma sciopero lì? No, in 3. Ma lui, ma la macchina che hai preso, nuova? No, usata. Sì, la Citroen C3. E infatti io l'ho vista, ha detto, non lo so se è la sua, boh, si sta virucidando i fari. Esatto, sì, la mia. E quella là che si era fatto, che se l'aveva cambiato tutti i pezzi, porca miseria, ma che cosa c'aveva? E mi ha fatto lo stesso problema, che mi si è mischiato l'olio con l'acqua. Ma c'era qualche danno da qualche parte che non lo sono riuscito a cavarne il piede. Ma già lo so io che cos'è. La guarnizione della testata che si è consumata, si è incollata e fa passare l'acqua. Non ho capito, si è consumata? La guarnizione della testata si incolla, a furia di essere vecchia, si incolla e come consumata passa l'acqua, dalle intercampini passa l'acqua e va in pistola. Ma sono messa nuova. La guarnizione? E allora? E allora non te l'hanno messa bene, perché non è possibile, è quello lì. Io lo so di sicuro che è quello, perché quando fa quel lavoro lì, che si mischia olio con l'acqua, è quello, la guarnizione. Cara Ghiso. Ecco. Uno con lecca lecca, Quindi che bilancio burrito, ecco, ancora non lo sto più usando, ma già ce l'ho. Oh, quanto è bella, la ricezione è migliorato. Sì, no, già. Non c'è tantissima differenza da una all'altra, però già anda. E in lontananza la devi provare anche tu, ma penso che vada bene. Ho provata stamattina in lontananza, a fondo scala, a Platamona. Ehi, vabbè, Platamona è vicino. Comunque, cioè, va bene, anche per lo scorso fondo scala Pantamona va bene. Ma cosa? Come ti si chiama? Dice che segnava il mixer, ma lo Smith segnava al massimo. Al terzo pettine. Sanno, cosa sanno, una decina di chilometri da qua. E giovane stanco. Da giovane stanco, ma ha detto che ci arrivava a fondo scala. Non ho più sentito io, giovane che non intendo. Ti ne è entrato. Luca, e questa C3 cosa le devi mettere? Un liquido in più? Perché le Citro di solito si mette un liquido per i iniettori, si mette un liquido in più, ma che lì c'è? Ah boh! È normale. Allora io quando sono andato a comprarmi la macchina non ho preso la Citroen, mi sono preso una Citroen nuova però, è nuova di zecca. macchina bella grande, però mi ha spiegato che c'era questo liquido, ogni volta che tu mettevi il pieno dovevi mettere anche questo liquido, che tu l'ha speso in più, e tu no, la sabbia di blu e serve per gli iniettori, dice che non ti fa sporcare gli iniettori, dice tanto poi se devi fare gli iniettori ci spendi 3 volte in più, invece così non si sporca. Ma già ti dura 20 euro a bidone costa, mi pare. Però forse nelle macchine nuove sono. Quella lì quanti anni c'ha? Nel 2008. Nel 2008? Sì, sì. Sì, molte macchine, tipo la BMW, c'hanno la di blu, c'hanno. Ma rabboccato quello. Tipo gli autobus, ce li hanno tutti, gli autobus, il camion. Com'è, messa bene questa? Abbastanza. Tutta profumata adesso, bella bella, come piace a me. Abbastanza pulita. Sì, sì, diciamo, non sei un po' rovinato, non me ne frega niente. Mi interessa. Vabbè, tanto per portarti dei fusti, perché ormai ti eri abituato alla macchina, che se sarà a piedi di nuovo era un... Goindrodio, vallo. Cos'è? Piago Goindrodio. Luca, vedi, ci dà la magica al cocco o alla vaniglia, che sono uguali, sono lo stesso odore. Io ci metto sempre qui. No, guarda, c'ho uno lui e quello alla vaniglia ho messo, però durava poco, la magica durava pochissimo. E poi mi ha dato questo prodotto da diluire, un goccio, da mettere nello spruzzino, gli dai puff, un puff, così, e ti rimane la macchina tutto il giorno profumata. Sei fissato, via. E io gli ho cambiato i tappetini di davanti. Sento sotto, Antu. Però l'originale non li ho comprati, quelli che si incastrano, che c'hai buchi per incastrare. Se costavano 40 euro originali, dalle 40 alle 53, dipende dal modello. E praticamente quella mia costavano di più anche. Sono andato dai cinesi e mi ero comparati, li ho messi sopra e buonanotte. E beh, certo. Questi 12 euro sono belli, sono tutti mochetti, belli. No, adesso i miei non sono vecchi, però voglio mettere quelli in plastica sopra. Ma a me non mi piace, là c'è un odore brutto, mamma mia, la plastica, la gomma, quella in gomma, voi. Sì, dico un paio di droni già, a vedere che passa tutto. Ma così, devo essere la maglia di qualcuno, Antonio. Sì, buonasera, care. Mirato le squalo. Otto. Tore, abbassa il checco che non si comprende uno. Non c'è, no. Passa che sono con la frenata, non mi comprende. Pisciò, cazzo, ne ha, ecco. Bobo. C'è le cale, catto. Ma benissimo, così forte. Schiaffo. Guardi, vai ancora, vado a passare. C'hai le combe alto, c'hai, abbassalo un po'. Il mio meglio va tu. Sì. Questo qui è il mio pecco, ci metto un po' a metterlo. Sta facendo di casino. Capito? Un bel po'. Vabbè, adesso com'è? Perfetto. Ancora? Oh no, negativo, negativo. No, adesso va bene, poco fa era troppo forte. Oh, va bene. Adesso va benissimo, si capisce. Sì, si capisce, si capisce. Non è bello. Ma non ci ti su viaggio Maria, come ti mai? Ieri non c'era, l'ho aspettato ma non c'era. Poi stava facendo il lavoro al microfono. Però non l'ho messo a posto quasi alla fine. Ah, cappa. È strano, ho detto che non ci sia. Perché le sere lo sentivo sempre sul 23, adesso no, non lo sento più. Perché stai uscendo a bassa voce? Sto parlando a bassa voce perché sul microfono normale, capito? Sono a letto, sono. Ma io lo sento chiaro, lo sento bene. Che a letto non va sull'intendo? Proprio a bassa voce, bassa voce. Possibile, bassa voce. Lo sento chiaro, dai. Non è amplificata, ma è chiaro, dai. No, adesso lo sento un po' bene. Adesso lo sento un po' bassa voce. Oggi ti capisco, che se va a vedere a bassa voce. Invece ne che c'è un tarato dal microfono è per quello. Perché quello lui è abituato magari con l'amplificato e si allontana, capito? Ma no, già sono vicino già. Ma dormino vicino a te. Che cucato, dormi due. Piccolino. Era stancato all'asilo. Sì, ha giocato molto, mi hanno detto. Adesso tra un po' arriva lo zio, arriva la zia, tra un po' e mangiamo tutti in fare. Verso le 7 verrà. Va bene. Il poverino anche lui. Dai, che cresce tu. Mi hanno detto dall'asilo che l'hanno misurato, dice che è cresciuto parecchio. Ovvio. E beh, loro li tengono sotto controllo, li pesano, li fanno. Mi sa che sono andato anche io in quell'asilo lì, lo sai? Quando eri piccolo? Io. E praticamente per andare dove c'è il coso della Ferin, però dall'altra parte. Sì, ho capito dove. Più su del consultorio familiare. E lì all'inizio via Pascoli, proprio. Ci sono stato anche io, mi sa. Perché se da piccola andavo lì, la mamma mi portava lì. C'era un cestinetto celeste, me lo ricordo ancora. Vianurra è quella, no? Sì. Infatti non è via Pascoli, è Vianurra. Passati un bel po' di anni, sono passati. Antonio, ma quell'asilo c'è storico qui, c'è da un bel. C'è da un bel sì. Ti dico una cosa, che gli asili comunali sono i migliori. A Sassari funzionano bene, sono all'avanguardia. Sì, sono abbastanza attrezzati, dai, adesso gli asili. Quelli diciamo privati è diverso, ma quelli comunali c'hanno anche gli specialisti che vanno di tanto a controllare i bambini. Ma quelli comunali sono molto, sono i migliori che ci sono, anche quelli di quelli privati sono i migliori che ci sono, perché funzionano bene, funzionano, hanno tutto. A Sassari funzionano benissimo, funzionano, e tutti li vantano in giro, perché sono i migliori, sono. Ma come sono a pagamento? Io pago, ogni tanto pago un tot, pago. E vabbè, ma sono in base al reddito, mi pare, quelli, no? Sì, è comunale. Vabbè. E gli è un aiuto anche quello, tu, perché se devi lavorare come il bambino te lo tengono bene. Sono bravi, dai. Chiaro un greco, via. Interessante che li tratti a livello. Sì, che le trattano bene, scherzo. Ma li trattano non bene, no, di più. Li trattano molto, molto bene. Te l'ho detto, sono i migliori, i più che funzionano bene. Sono. Luca! Io che ho fatto dentro la riunione e da qui non ce ne è andato. Luca! Ora riprendete. Sì. Ah, perché sono molto controllati quegli asili, ecco cosa è, sono parecchi controlli oggi. Guarda, sono contentissimo che sia così, lo trattano molto bene a mio figlio, ma a tutti però, in generale li trattano benissimo i bambini, proprio. Dopo tante malfatte ci vuole un posto così, dove li trattano bene i bambini. Speriamo che facciano anche degli istituti comunali per gli anziani, perché ho visto questi istituti privati come te li trattano. Le montano e te... Te, ucca! poi quella è un'altra storia a parte. Per carità. Adesso quello dei cronici l'hanno chiuso, lo sai. Per forza, era un lager, non era un coso. Ah, sì, ma un lager. Non li trattavano bene. Guarda, c'era mia nonna, quando c'era mia nonna è stato sempre bene, non si lamentava mai di nulla. Vabbè, è morta. Però lei è voluta andare lì perché lei stava a casa di mamma e ha detto che voleva andare in un istituto, così non rompeva le scatole a nessuno, e mamma ha detto, ma non mi rompi le scatole, se ne voleva andare a Matesse. E ha detto che stava bene. Qualcuno però mi ha detto il contrario. Ma tua nonna da che parte? Da parte di tua madre? Ella, sì, da parte di mia madre. E vabbè, mia nonna da parte di mio padre, l'ho conosciuta che avevo un anno, poi non l'ho più vista, è morta da subito. Aveva già 96 anni quando l'ho conosciuta io, infatti lungo. Sì, da parte di mamma. E veniva a casa, la portavo anche la ziada che abitava lì, nella casa del Canada, la sorella della madre, e niente. Però lei non si è mai lamentata di più, gli dice che gli davano i cioccolati, ci portava i cioccolati a lui perché lei non li mangiava, gli davano anche il cioccolato, figurati. Poi non lo so, magari con l'andare del tempo hanno cambiato le cose, che ne so, però quando c'era lì stava bene. Non lo so. Allora faccio la roba. Fino a mezzo, allora ci faccio il sindaco. Poi bisogna vedere il tribunale cosa fanno. Cosa to? Aspetta, che sino a fine mese ci pensava il sindaco a tenerli lì, poi si vedrà con il tribunale cosa usciva fuori. Perché anche in queste anziane si sono affezionate al personale, tutto gatto, un baracci, si affezionano, capito? Il sindaco ha detto che siete, c'è il potere lui di far rimanere lì con il tribunale e poi sarà la regione a finanziare. È un po' tutti gli istituti anche.